Radio Tripo International è una web radio personale, non ha entrate, utili, non ottiene alcun tipo di finanziamento, non trasmette spot pubblicitari. Le opere musicali programmate sono di tipo Creative Commons, precisiamo, Creative Commons, licenza attribution, by. Per ciò che concerne il resto, per i programmi parlati, ci rifacciamo all'articolo 21 della Costituzione italiana che dice: tutti hanno diritto di manifestare, liberamente, il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo, di diffusione. La stampa, non può essere soggetta, ad autorizzazioni, o censure. Buon ascolto, con i nostri programmi, un abbraccio, a tutti, da Radio Tripo International. Eccoci qua, ci siamo, buona serata a tutti da parte di Andrea, benvenuti e bentrovati all'interno di Articolo 21, questo programma in onda su Radio Oltrepò. Ricordiamo un pochino insomma che cos'è Radio Oltrepò. Radio Oltrepò era una radio che trasmetteva nel 2005-2006 in streaming ogni tanto, e dopo qualche anno di cessazione di programmi ho deciso insomma di riaprire la radio, di trasformare questa emittente radiofonica in un vero e proprio progetto open source. Giustamente molti di voi magari si chiederanno: cos'è che sta dicendo questo? Mica stiamo parlando di, non so, magari di Linux che è open source. No, è un progetto tutto gratuito, nel senso che per trasmettere non paghiamo una lira. Utilizziamo programmi che si reperiscono sulla rete e che consentono proprio questo tipo di attività. In questo caso stiamo parlando al microfono, ma è anche possibile mettere musica, eccetera, eccetera. Visto e considerato che i nostri legislatori romani, insomma, fanno delle leggi particolari, una tra le tante è quella che tutela i media radiofonici che trasmettono via web come la nostra radio. Una legge veramente assurda, perché in Italia per trasmettere musica coperta dai diritti d'autore bisogna pagare non una licenza, magari la SIAE, bensì due licenze. Quindi questo vi fa capire magari che argomenti dibattono a Roma i nostri amministratori. Vabbè, dai, spendiamo un velo pietoso. Invece, non so, vi posso portare l'esempio degli States, dove magari ci sono dei veri e propri server che consentono anche di pagare loro direttamente i diritti d'autore. Vabbè, premesso questo, ho appunto ricordato che cos'è Radio Oltrepò. Magari ci sono sempre gli amici che si collegano per la prima volta alla nostra trasmissione, allora è giusto fare un pochino un riepilogo di che cosa state ascoltando. Radio Oltrepò è una radio che trasmette goliardicamente, tra virgolette, passatemi il termine, ogni tanto, insomma, quando è sottoscritto dei ritagli di tempo. Non trasmettiamo assolutamente canzoni protette dai diritti d'autore della SIAE, perché non è possibile. L'attuale normativa vigente in materia di web radio personali non consente la diffusione di questo tipo di opere, a meno che non si abbia pagato la cosiddetta licenza SIAE, la cosiddetta licenza SCF. E allora voi direte: ma che musica state ascoltando? Ebbene, Radio Oltrepò trasmette della musica, diciamo così, di pubblico dominio, Creative Commons. Sarebbero delle licenze, sono sei, che diciamo così consentono, almeno sono due licenze che consentono la diffusione radio della musica, e gli artisti sono tutelati proprio come la SIAE. Un discorso un po' contorto, però la nostra radio trasmette questa musica, almeno è a posto, non c'è nessun problema con la SIAE e compagnia bella. Anche se devo essere sincero, io sono un appassionato di questo genere di musica, Creative Commons. Spesso sono sul sito yamendo.com e ho trovato un sacco di vere e proprie opere d'arte musicali. Quindi se volete anche voi avvicinarvi a questo meraviglioso mondo che è, potremmo definirlo certo, anche lui open source, www.yamendo.com, e trovate delle canzoni spettacolari che non mi fa ascoltare quasi nessun network radiofonico, ma però Radio Oltrepò, insomma, per distinguersi un pochino dalle radio della nostra zona, tipo Radio Voghera, Radio Ticino, tanto per citarne qualcuna, Radio Inchiesta, noi trasmettiamo solo ed esclusivamente questa musica. All'interno di articolo 21 c'è anche spazio per parlare magari un pochino di televisione, vi leggerò tra poco i programmi in onda questa sera e poi i titoli della provincia pavese e gli approfondimenti del sito internet Piacenza Sera per quanto concerne le notizie, le news per gli amici e per le amiche che ci stanno ascoltando magari dal Piacentino. Vi ricordo che questo programma andrà in onda in replica nel weekendone della nostra radio, ogni venerdì e ogni sabato, ma andrà in onda anche in replica al termine del programma, quindi ripartirà ancora per l'appunto articolo 21 e ci divertiremo alla grande. Che cos'era? Non ho capito. Sì, è la nostra basettina che è particolare e direi è molto molto carina. Ora direi di ascoltarci un brano, scusate la ripetizione, e poi parleremo proprio dei titoli del nostro quotidiano per eccellenza, la provincia pavese. Voi state lì a tra poco per i titoli della nostra, insomma, della nostra grande giornale, la provincia pavese. Era proprio questa la canzone che volevo, vabbè, è partita questa, siete su Radio Oltrepò. In vostra compagnia c'è Andrea. Oltrepò, stai ascoltando articolo 21. Tra pochi istanti, i titoli della provincia pavese. Stai ascoltando la programmazione di Radio Tretò. Ci siamo, articolo 21, e ora è arrivato il momento di leggere i titoli della provincia pavese. Nel Taglio Alto un uomo morto e un ferito grave, questo è successo a Binasco, ha perso la vita un 21enne milanese. Nel riquadro in basso a sinistra, Pavia, a casa gli studenti bloccati in gita dalla nube di Islanda. Ovviamente sono gli studenti di una scuola di Pavia. Ovviamente leggendo la versione online della provincia pavese non è possibile poi insomma accedere proprio all'interno dell'articolo completo e tantomeno è possibile ingrandire bene l'immagine, quindi magari scusate per eventuali papere, direi involontarie. Sempre nel Taglio Alto a destra, l'inchiesta, anziani in provincia di Pavia, 20.000 over 80 in provincia, già emergenza cure. Sempre nel Taglio Alto a sinistra, nella parte centrale, San Matteo, ecco i quattro medici che tentano i risvegli dello stato vegetativo, continua poi l'articolo a pagina 12. Nella parte centrale, sempre della provincia pavese, scusate, Vernavola, spaccatura nella PDL, Pavia, ma il progetto per le case passa in consiglio. Continua l'articolo a pagina 13. Sempre a destra, nel Taglio centrale, regione, per Ciocca la giunta è più lontana. Basso abbiamo un altro articolo, morì alla Santa Margherita, la procura fu sabotaggio. Vediamo ora invece di trovare magari qualche approfondimento all'interno delle pagine della provincia pavese, lo troviamo immediatamente, vediamo un po' se riesco a recuperarlo, poi vi leggeremo anche qualche news per gli amici di Piacenza per quanto concerne le manifestazioni in giro per la città di Piacenza per questo fine settimana o anche semplicemente domani. Un altro articolo di approfondimento della provincia pavese, bel gioioso, maestra condannata per truffa, era di quella scuola, anche secondo l'accusa a girare la verità. Addirittura, pensate un po', questo è accaduto alla scuola elementare di Belgioioso, insomma. Tribunale cerca sponsor per comprare carta e penna. Questo è un articolo, mi sembra, di ieri o dell'altro ieri. Comunque, sul sito rimane ed è una news molto, molto, a noi sembra simpatica, però magari è un po' la situazione che verte in questo periodo, magari, non so, certi enti pubblici, eccetera, eccetera. A Palazzo di Giustizia mancano i soldi anche per la carta e per le penne. Allora il Tribunale di Pavia, per recuperare fondi, ha deciso di chiedere aiuto ai privati. Lo strumento è il sito internet www.tribunale.pavia.it. In cambio di finanziamenti, gli sponsor avranno il loro logo sul portale. Il denaro, dopo essere passato attraverso il Ministero del Tesoro, arriverà direttamente al tribunale e sarà utilizzato per le spese di cancelleria. A casa gli studenti pavesi bloccati in gita dalla nube sono stati accolti da un lungo applauso dopo quasi 24 ore sui bus della Lufthansa i 240 ragazzi del Copernico rimasti bloccati dalla nube vulcanica a Londra da sabato a lunedì. C'erano i genitori, il vicepreside Massimo Chiodi, i rappresentanti di classe e loro sono scesi dai pullman sospirando un finalmente. Tra i genitori, ringraziamenti all'agenzia viaggi Happy World per l'impiego 24 ore su 24 e alla scuola per aver gestito in modo, direi, soddisfacente questa emergenza. Vediamo se riesco a ritrovare qualche altro articolo, perché vado sempre a ruota libera. Derubati in due villette mentre guardavano la TV. Due villette, una a fianco all'altra, svegliate mentre i proprietari guardavano la televisione. È successo domenica sera a Miradoro, a due passi dallo stabilimento termale. I ladri hanno preso di mira le abitazioni di alcuni pavesi che si stavano guardando dei programmi televisivi e per l'appunto i ladri hanno fatto man bassa di gioielli e di denaro. I carabinieri di Chignolo Po hanno aperto un'inchiesta. Un'altra news reperita sempre dal sito la provincia pavese, insomma, .it, mi sembra che sia questo l'indirizzo. Rapina.snai, bottino di 200.000 euro, però Rapina.snai mentre i clienti giocavano, un colpo messo a segno da due uomini di mezza età, uno armato di pistole, che hanno fruttato un bottino di circa 250.000 euro. I rapinatori sono fuggiti a piedi e forse un complice li aspettava a bordo di un'auto. I carabinieri hanno aperto un'inchiesta, ma non ci sono tracce dei due malviventi. E mi sembra tutto questo per quanto concerne le news dal territorio pavese che abbiamo reperito dal sito online della provincia pavese. Tra poche battute invece parleremo del territorio piacentino con alcune notizie reperite dal sito Piacenza Sera. State lì, non muovetevi, perché la nostra grande musica è sempre in continuo movimento. Questa è Radio Oltre Po. Stai ascoltando la programmazione di Radio Oltre Po. fino all'ultima nota questa canzone bellissima, Black Knight, DJ Osis. Siete sempre all'ascolto di Radio Oltrepò e in specifico siete all'ascolto del programma Articolo 21 in compagnia di Andrea per quanto concerne la voce e anche la regia. In precedenza abbiamo letto le principali notizie della provincia pavese, reperite online dal sito ufficiale del grande quotidiano pavese. Ora invece ci spostiamo nel Piacentino per leggere i principali avvenimenti del weekend a Piacenza e provincia. Molto molto interessante, direi, il centro di lettura di River Garo che propone un convegno addio alle armi. Poi ci spostiamo invece, questo è per venerdì, ci spostiamo in Piazza Duomo a Piacenza che per venerdì presenta il mercatino dei prodotti tipici. Al caffè Margherita di Ziano, Marco Rei Mazzoli in concerto. Teatro Municipale Piacenza, c'è un evento che purtroppo non riesco a leggere bene il nome. Libreria Fahrenheit Piacenza, giornata mondiale del libro. Ora vediamo invece sabato, perché insomma c'è qualche bel evento in giro sempre per il Piacentino, in caso che magari vi spostate a Piacenza. Al caffè letterario Baciccia di Piacenza, aperitivo corto. Piacenza sempre notte blu, appuntamento con l'arte. Vediamo un pochino se riesco a reperire qualcos'altro. A Sarmato, manifestazione per il 65esimo anniversario della liberazione. Al Borgo Faxal, Benson Bros. Alla vecchia stazione di Ponte dell'Olio, scusate ma mi è scappata, eccolo qua, ritorna per sabato, stiamo parlando di sabato, vecchia stazione di Ponte dell'Olio, After Dinner Live. E anche sabato in Piazza Cavalli di Piacenza c'è il mercatino dei prodotti tipici, in caso che girate in quelle zone. Queste news sono reperite dal sito Piacenza Sera, che trovate direttamente sul web. C'è anche un fatto di cronaca, ruba l'identità a una dottoressa denunciata. Sventata truffa, un vero e proprio furto di identità è quello che è accaduto e che ha, diciamo così, accaduto per stessa San Giovanni, è attuato da una donna nomade di del classe 56 ai danni di una dottoressa, quindi anche se sono Giovanni capitano queste cose. Vi ringrazio per l'attenzione, continuiamo ancora con la musica, ritorneremo poi in diretta invece con i programmi per quanto concerne la sera di oggi. Daremo uno sguardo alla piattaforma Sky, insomma cos'è che c'è di bello su Sky. State lì, state con noi. Sempre dalla Svezia questo grande successo di Kammerer, Lighthouse Crush, bellissima veramente, ottimo artista su Radio Oltrepò. Kammerer, solo per voi. veramente strepitoso questo produttore e compositore svedese, Kammerer, veramente bravo, un'altra ennesima canzone da brivido, troppo bella, Late House Crush. Ricordo che la musica che state ascoltando è musica Creative Commons, nel senso che è musica che non si appoggia alla compagnia SIAE per quanto concerne i diritti d'autore, e quindi essendo musica di viene definita tra virgolette pubblico dominio, anche se anch'essa ha ben 6 licenze che la tutelano, è musica che può essere tranquillamente diffusa senza dover pagare tasse varie, ed è per questo insomma che all'interno di articolo 31 vi proponiamo questa musica che a mio parere è veramente veramente fantastica, perché oltre ad essere diciamo così libera principalmente, ma ci sono degli artisti che veramente non hanno nulla da invidiare ai blasonati cantanti che vengono tutelati dal SIAE. Vi ricordo che il nostro sito internet, se magari è la prima sera, se ci state ascoltando in diretta oppure mattina, pomeriggio, notte, se ci ascoltate in replica, se volete avere informazioni sulla nostra radio, www.radiooltrepo.too.it. Io sono Andrea e vi ricordo ancora una volta che la nostra radio è completamente gratuita, open source al 100%, nel senso che è un po' così un tipo di progetto che ci stiamo divertendo a portare avanti. Utilizzando degli strumenti gratuiti che troviamo su internet è possibile entrare nelle vostre case, nel vostro personal computer, oppure se ci ascoltate dai vari cellulari, un saluto anche a chi ci ascolta dagli iPhone e perché no anche da quelle radio futurista che attualmente sono in vendita anche in Italia, che consentono di ascoltare le radio direttamente dal web, quindi non più come un tempo che uno accendeva la radio in FM, ci sono delle vere e proprie radio che si appoggiano al router di casa e consentono proprio agli utenti di ascoltare la radio non in FM ma direttamente dal web. Oserei dire tutto molto molto magico, che ne dite, vi piace questa cosa insomma. I nostri contatti, se volete magari non so diventare nostri amici su Facebook, cercate Radio Oltrepo. Potete anche seguirci su Twitter, dove insomma ogni tanto postiamo delle news che vi possono tornare utili se volete magari conoscere meglio la nostra stazione radio. Ora bando le ciance, scusate, mi ero abbassato il mixer da solo, ma faccio tutto da solo, vabbè. Ora parliamo di televisione, in specifico uno sguardo ai programmi di Sky Cinema Italia, visto che insomma Mediaset e Rai probabilmente li avrete ascoltati già non so quante volte, magari se tornate a casa dal lavoro ascoltate la radio in macchina, continuano a dirvi non so cosa c'è su Rai, cosa c'è su Mediaset, noi invece insomma per essere vicini a questo grande progetto di Murdoch vi diciamo che cosa programma Sky Cinema per questa sera. Sky Cinema 1 alle ore 21 c'è Prima TV, Film Commedia, Tesoro, Sono un killer. Vediamo ora invece Sky Cinema 24, sempre alle ore 21, Film Commedia, Center Stage. Sky Family invece, Film Commedia, In Good Company del 2004. Sky Hits invece un film drammatico, Non è un paese per vecchi. A seguire per gli amanti del thriller c'è un film, Perimetro di paura. Uno sguardo ora invece a Sky Cinema Max, alle ore 21 c'è un thriller, The Code. Sky Cinema Mania, alle ore 21 film drammatico, 21. Sky Cinema Italia invece sempre alle ore 21 Film Commedia, Pranzo di Ferragosto. A seguire alle 22:25 Film Commedia, qua siamo molto molto sul trash, Giovannona, Coscia Lunga, Disonorata con Onore di Sergio Martino con Edwige Fenech, 1973. e alle 05 Film Fantascienza, La morte viene dal pianeta, sempre su Sky Cinema Italia. Sky Cinema Classics alle ore 21, A briglia sciolta, film commedia. Alle 22.45, film drammatico, Riflessi in uno specchio scuro. Uno scorcio anche su Cult, alle 21, film thriller, Funny Games, un thriller direi molto molto spietato. L'ho visto, non è che mi sia tanto giunto gradito, vabbè. Ora il canale della Metro Golden Mayer, 320 Sky, alle ore 21, film horror, Pentagram, probabilmente lo guarderò, questa sera Pentagram a manetta. A seguire sempre su Metro Golden Mayer, 22.45, film drammatico, Orchidea Selvaggia. Questo direi è proprio tutto anche per quanto concerne le prime visioni non al cinema ma bensì su Sky. Ci ritroviamo tra poco con ancora grandi successi musicali. State lì su Radio Oltrepoco e vai così. Stai ascoltando la programmazione di Radio Oltrepoco. Thank you. sono acceso una bella sigarettina. Sono solito fumarmi la pipa, però ora avevo voglia di una bella sigarettina, per modo di dire, quindi mi sono acceso una bella siga alla grande. E vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Articolo 21 in compagnia di Andrea, la radio è sempre lei, Radio Oltre Po. E ora parliamo invece di informatica. Ho scovato un sito, direi, molto molto interessante. Parliamo di file da archiviare. Magari non avete voglia di farvi, diciamo così, imballare il computer di file, di immagini, di mp3 eccetera eccetera. Vi rimando a un sito molto molto carino che si chiama Dropbox e vi consente proprio di archiviare immagini mp3 sul web, ma in pratica vengono condivise sul computer. È un qualcosa di carino perché in pratica vi aggiunge sul computer una cartella virtuale e ci potete trascinare in cima quello che volete. Ovviamente sto parlando di file mp3, di immagini, di file di testo, e in pratica vi sembra che il vostro computer si sia aggiunta un disco fisso dove poter archiviare quello che volete. La versione free mi sembra vi consente l'archiviazione di 2 giga o forse 4, ma forse 2 giga. La versione a pagamento invece vi dà anche, mi sembra, 50 giga, quindi uno spazio enorme. Dropbox è questo software, sempre anche lui gratuito, che potete scaricare e diciamo così installare direttamente sia su Windows che anche su Linux, quindi per gli utenti Linux anche loro possono, diciamo così, utilizzare questo bel programmino. Andiamo avanti con la musica. L'artista italiana Magdalene Grell con Goodbye, una canzone stupenda, su Radio Oltre Po con Andrea. Magdalene Grell. Graal con questo brano stupendo Goodbye, un'artista italiana che su yamendo.com sta ottenendo un sacco di consensi, perché vi ricordo che questo sito, che potremmo definirlo tra virgolette lo sponsor della nostra radio, perché noi attingiamo proprio da Yamendo per quanto concerne la musica che trasmettiamo, su questo sito potete, oltre che ascoltare i brani, li potete anche scaricare e diffonderli, ascoltarli nel vostro MP3, eccetera eccetera. Sul sito, direi, molto molto navigabile con facilità, trovate un sacco di link, le licenze divise per genere, potete scegliere, non so, il genere ambient, il genere chill out, dream, dance, electro, canzoni che magari difficilmente ascoltate in giro per l'FM. Nella nostra radio le potete ascoltare sempre, e oltre alla radio, se magari volete navigare un pochino sul web, vi ricordo yamendo.com, dove trovate tante tante chicche musicali da scoprire e, perché no, anche da diffondere sul web. Quindi se come noi amate la libertà di internet, ricordate Radio Oltrepò e yamendo.com, solo per voi, eh. Poche battute al termine di questo programma che vi ricordo si chiama Articolo 21, alla conduzione Andrea, ancora per un pochino. Cosa molto importante per quanto concerne il weekend della nostra radio, vi ricordo che noi l'abbiamo definito le weekendone di Radio Oltrepò. Tutti questi programmi in diretta li potrete ascoltare registrati sabato e anche venerdì, così se vi siete persi qualcosa potete riascoltare le trasmissioni e divertirvi magari con Radio Oltrepò. Salutiamo ora gli amici che ci stanno ascoltando magari dal cellulare, dall'iPhone. Grazie a tutti per l'ascolto, state con noi perché la musica qua da noi non manca mai. Ed ora mandiamo immediatamente un promo che ci ricorda in poche parole che cosa dice l'articolo 21 della Costituzione italiana, per noi molto molto importante, per le radio, diciamo così, personali libere come la nostra, molto molto importanti, che insomma è bene ricordare se qualche legislatore da noi eletto volesse in qualche modo magari cambiare questo articolo e, a mio avviso, magari limitare un pochino la libertà per quanto concerne le web radio, che già oggi insomma sono molto limitate in fatto di diffusione musicale. Comunque è sempre meglio ricordare questo articolo per tutti i nostri cari legislatori romani. E vai, Radio Oltrepò. Radio Oltrepò International è una web radio personale, non ha entrate, utili, non ottiene alcun tipo di finanziamento, non trasmette spot pubblicitari. Le opere musicali programmate sono di tipo Creative Commons, precisiamo, Creative Commons, licenza attribution, by. Per ciò che concerne il resto, per i programmi parlati, ci rifacciamo all'articolo 21 della Costituzione italiana, che dice: tutti hanno diritto di manifestare, liberamente, il proprio pensiero, con la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo, di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Buon ascolto con i nostri programmi. Un abbraccio a tutti da Radio Oltrepò International. Il jingle insomma è partito e la radio è sempre con voi online. Riprendono i grandi successi all'interno di Articolo 21 con Andrea. Vi ricordo anche la mail per scriverci: radiooltrepò@live.it. radiooltrepò@live.it per le vostre critiche, commenti, considerazioni. Con Andrea. High above the avenue, everything I touch would turn to gold. The air outside, it won't come in unless it's filtered oxygen. I'd never grow old. Secluded in this tinsel town, where nothing ever brings me down, and nobody can see my flaws that are charaded by the glitter and the sun-kissed sky. essere sincero, non mi ravvedo mai di come passa il tempo. Siamo proprio giunti al termine di Articolo 21, questa è Radio Oltre Poi, sono Andrea. Ci ritroveremo sicuramente, a Dio piacendo, nelle nostre prossime serate, nottate o pomeridiate, pensatemi questi termini, in caso ci ascoltate magari pomeriggio. Ricapitolo un pochino il tutto: se volete entrare in contatto con noi c'è la nostra mail radiooltrepo@live.it, radiooltrepo@live.it. Poi abbiamo il sito internet www.radiooltrepo.too.it. Ci trovate anche su Facebook, account Radio Oltrepo, cercate Radio Oltrepo, o trovate il nostro fans club, o trovate la nostra pagina, ma più probabile che trovate il nostro profilo, quindi ci potete aggiungere alla vostra lista di amici e diventare, insomma, sostenitore di questa web radio no profit open source. Siamo anche su Twitter Network, se volete essere informati sulle nostre news cercate sempre Radio Oltrepo su Twitter, ci trovate tranquillamente. Mi sembra di aver detto tutto, vi auguro una dolce serata se ci ascoltate in diretta, se invece ci ascolterete in replica un buon proseguimento con i nostri programmi in live streaming. Ci sentiamo ancora, a Dio piacendo, prossimamente. Un abbraccio a tutti da Andrea ed ora vi lascio con l'ultima canzone, che è anche la mia canzone preferita del momento, mi fa impazzire. Qua si sogna veramente ad occhi aperti. Jameson Young con Crush, veramente canzone da Oscar della musica. Grazie ancora per l'attenzione, bye bye, ciao da Andrea, ciao ciao. Stai ascoltando la programmazione di Radio Oltre Po. Radio Oltre Po, solo il meglio della musica. You don't have to crush me. You don't have to put me down. You don't have to be the way you are. I know that it's hard. Things are never what they seem. As life goes on, things might change. I hope I change my way. You say that I'm selfish. It's me I aim to please. I have no heart. Do not care, there's no one else, just me. You don't have to crush me. You don't have to put me down. You don't have to be the way you are. You've judged and tried me 10 times over, and you told me that I'm cheap. You've said that I should get a life, just me. You don't have to crush me. You don't have to put me down. You don't have to crush me. You don't have to put me down. You don't have to crush me. You don't have to put me down. You don't have to. You don't have to put me down. I know that there's no fun in fighting. It seems you're bent on crushing me, crushing me, crushing me. It's the day after you burned me and the smoke still hasn't cleared. I don't know what to say. You brought a man to tears. You don't have to crush me.